Ad Asti è venuto oggi il Presidente della Repubblica per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Vittorio Alfieri, poeta repubblicano. Questo il cortile della casa paterna dove trascorse, egli dice, la stupida vegetazione infantile. Qui colse la cicuta con cui verso gli 8 anni voleva darsi morte per umor malinconico. Aveva capelli rossi, occhio incavato. Sul registro delle nascite un nome destinato all'immortalità. Studiò il greco verso i 40 anni. Ecco il secondo rifacimento dell'Alceste Euripidea che egli dedicò alla sua donna. Il crocifisso, il letto dove ancora inseguiva versi e fantasmi. E la sedia famosa a cui si faceva legare quando ancora non era venuta l'ora della gloria. Ragazzi, non crederete a chi ho trovato ieri per strada. La prof di italiano! Mamma mia, m'ha attaccato un pippone che fa il carax, che fa fumino, ah! Tra l'altro mi ha dato intanto un bello scappellotto per ricordarsi dei tempi antichi e poi me ne ha dati altri due, uno per ognuno di voi. Dice, portaglieli così si ricordano di me. E quando mi ha chiesto come passavamo il tempo, se eravamo stati in galera, se eravamo finiti nella droga, gli ho detto che insomma ci siamo messi a fare la radio e che facciamo un programma dove cerchiamo di imparare un po' di teatro. Vi ricordate la fissa che c'aveva per Vittorio Alfieri? Certo che me la ricordo io, ma avrà da 12-3. Certo, questa rompe coglione anche da vecchia. Era vecchia anche quando andava a scuola noi e rompeva i coglioni, diciamo. È sempre vecchia. Insomma, quanto potrebbe trovare il professore di ginnastica? Beh, era vecchia quando Carlo Magno istituì le scuole, quindi figuriamoci adesso, tant'è che ci ha dato da leggere, secondo lei, un pezzo di teatro di un giovane, cioè di Vittorio Alfieri. Insomma, avete presente quello che c'aveva quei capelloni, sembrava uno degli Europe, The Final Countdown, che via, capelloni, quella era una parrucca, quello sarà stato pelato e c'aveva una parrucca, sembrava Lady Gaga. Insomma, insisti, ci ha fatto la bocca sul fatto che noi reciteremo dalla commedia L'Uno l'ultima scena. Ora, sinceramente, sarà una commedia. Io mi immaginavo Totò e Peppino, mi immaginavo, che ne so, Scanarello di Molière, e invece praticamente non ci si capisce niente. Comunque, l'ultima scena gli abbiamo promesso, insomma gliel'ho promesso io, gli abbiamo promesso che la facciamo. Nell'ultima scena di questa commedia ci sarà Dario di Persia, ci sarà un tale Gobria e poi tutta una serie di altri personaggi che in qualche modo farò io. Va bene, voi chi vi mettete a fare? Questa comunque io voglio dire, continuo a rompere coglioni anche dopo. Io intanto voglio la tua assicurazione che non ci darai il voto, se no non la faccio. Che ti ha detto? Te lo dai il voto? Ce lo dà? Non ce lo dà? Forse ce la do preventivamente con queste due labbrate ci ha mandato giù, via, andiamo, facciamolo. Beh, contenta la prof, visto che si è fatta piangere tanto quando ci si andava a scuola. Allora tu fai Gobria e io fo Dario. Beh, non dimenticatevi che lei ha dato brutti voti a Garibaldi e per questo si dette alla brutta vita, fece il pirata in Sud America e poi in Italia fece abbastanza. Beh, qualcuno oggi che magari siede a Roma, quanti accidenti a Garibaldi gli ha mandato. Insomma, avanti, cominciamo con questa palla, dai. Vai, Gobria. Ho fatto io. Sono io l'ultimo forse cor qui giunga ad inchinare il nuovo re? Tu sempre, o Gobria mio, sei primo in fra i più accetti. Tu, domator di quella superbiaccia del tristor cane. io non ho fatto nulla, non mi dai nulla, e quel che espressamente vengo in persona a chiederti gli è nulla. Chiesta è disagio, che troppa ha chi ha senno. Dunque io son pago appieno, ma pel bello, pel generoso nitritor, oh, mi incastro su nitritor, nitritor, nitritor, il gioielliere, no, esatto, il gioielliere. Dunque io son pago appieno, ma pel bello, pel generoso nitritor sublime, per l'elettore che sballeno, io chieggo altro premio. Alto premio. La rifottuta? Il gioielliere, professoressa di merda. Dunque io so pago appieno, ma pel bello, pel generoso nitritor sublime, per l'elettore che sballeno, io chieggo alto premio. A puntino in ciò combini, corre non men che con noi tutti. E poi un altro, Parisa, dice, questa era Colacone. Appunto, tutti a gara stillavansi il cervello del come e quanto ed in eterno onori degni prestargli. E poi Megabizze che risponde. E chi proposto all'una, chi l'altra cosa. Ora ce n'è un altro, Oneiro. Ed io per me direi di fargli far dal più valente artefice una statua dal vero, d'oro sodo. Sì, sì, d'oro una statua. No, caro, non d'oro mai. Ch'io il vedo tra pochi anni fuso, il bel che sballeno, e monetato in migliaia di dari. Non va dubbio, i corpi d'oro sono di corta vita. Già si sa, d'oro sodo né il gran mitra potria durar nonché un mortal cavallo. Bene, io saprò farmelo d'oro e a un tempo far che i duri, in effigie piccinina di rilievo in un bello vaso d'oro, da una catena d'oro appeso al collo di voi grandi del regno, e i durerà e onorerà chi per mia scelta il porta. Oimè me, disgraziato che sballeno, che tu per onorarlo lo appendessi talvolta al collo di minor cavallo che non fu egli. Talentaccio, taci, qui non siam soli. Aggiungi, non potersi scolpir destrier senz'on che lo cavalchi. Per altra parte, neppur ti vorrei poi rimirar scolpito incivilmente sovra la schiena di chi re ti elesse. Serio buffo, agrodolce e punge e piaci. Concludiamo per questo che sballeno, poi me ne vo. Cenar dei meco. Secondo me la devo leggere diversa. La... Concludiamo? Concludiamo per questo. No, no, va bene. Ok, vai. Concludiamo per questo che sballeno, sì, sì, poi me ne vo. L'avevo interpretata diversa, ma diversa non andava bene uguale. Concludiamo per questo che sballeno, poi me ne vo. Cenar dei meco. Un re, nei premi anco mostrarsi de politico, chi die il trono può tornare. Questo deve. Un re, nei premi anco mostrarsi de politico, chi die il trono può torlo. Un re, nei premi anco mostrarsi de politico, chi die il trono può torlo. Mattacchione! Io matto, Ma Levador, stai... No. Mallevador. Io matto, Mallevador stai tu. Che sballeno, o un morso, o un calcio, o d'altro al suo signor tal di non dia? Non speri il re mai, no, di poter contentarlo. Troppo egli dee. Profondo è il rider suo. Dario, il premio il più util che puoi dargli. Fia di farlo ben bene imbalsamare con regia pompa egizia. Appena è morto. Appena in trono tu, sarai buon re. Se anticipato paghi, assai può secoli durar così il buon che sballeno. E intanto ei non potrà così mai rinfacciarti la donata corona. Che io t'abbracci, o il più lieto e sublime dei filosofi, tu mai da me non ti dipartirai. Anzi, con te non starò mai. Buon suddito sono e sarò, più ch'altri, ma lontano, sempre in eterno. Invido forse? Oibò, e in prova che io del regno non contesi, venni sovra un destrier che non poteva, sanco il voleva, eleggermi. E ciò come? Benché in Persia sia l'uso, io in casa mia non pasco eunuco niuno. Sol mi piacque di fare eunuco il mio cavallo. Oh bella! E appurar ciò potete, onde nitrire mal sapendegli, a niun di voi lo scettro, né il mio cavallo disputò, né Dio. Rar uomo, in vero. A me bastava, e basta che un re non vil qui regni, ch'io non vegga. Ma con Dario, te il giuro, almen stasera tu cenerai, poi non vedrai più il re, se il vuoi così. Pompa solenne intanto per domani preparisi, o miei fidi. Preparisi. Porca madonna. Preparisi, il fondo a capo. Ma con Dario, te il giuro, almen stasera tu cenerai, poi non vedrai più il re, se il vuoi così. Pompa solenne intanto per domani preparisi, o miei fidi. Un re, almen pari a qualcun altro, in me prometter vioso, e spero mostrar tosto che giacché in Persia la non può scartarsi questa fatal necessità dell'uno, nol potea né un cavallo elegger meglio. Ma voi ci avete capito qualcosa? Io ho capito che la professoressa ci ha messo di suo anche in pensione. Ma sarà diventata bravo. E poi, ma all'inizio l'unica cosa che mi è riuscito a dire è del tristor cane, che sembra quasi una bestemmia. Ma questo che è sballeno, ma che diavolo era? Ma che sballato è? E sarà qualcuno di Barry, che sballeno. Non era un altro parruccone come Alfieri. I demo morzelli d'allora. Boh. Che sballeno. Poi magari per il tristor cane ci tocca fare Alfieri davvero. Io scappo dalle quinte appena siamo lì. Allora, ho trovato qualcosa qui nel libro della professoressa. Dice che siamo più o meno nel 522 avanti Cristo e Dario Orcane Megabizze e un'altra barca di gente lottano per diventare re. Sicché un grande sacerdote, ragazzi, il prete c'è sempre, gli si inventa una soluzione. Leggo testualmente. Convenuti tutti e quattro all'alba sul campo di Marte a cavallo, sarà eletto re colui il cui destriero nitrirà per primo al sole nascente. La proposta di tale mistico mezzo all'elezione proviene dal gran sacerdote Colacone, che, schierato dalla parte di Dario, ricorre all'espediente a questi più favorevole, basandosi sull'interpretazione di sogni e profezie. Allo stalliere di Dario, Ippofilo, spetterà architettare l'ultimo trucco. Che sballeno, il cavallo fatale arriverà al grande appuntamento in calore e quindi nitrirà per primo, mentre il cavallo di Gobria, come si saprà dopo, non rischiava di far vincere il suo cavaliere in quanto castrato. Ora si è capito gnosa, allora via. Insomma, c'era un sotterfugio anche nel 500 avanti Cristo. Vabbè, la professoressa che sta dietro a cavalli castrati mi sembra alquanto preoccupante. Probabilmente da giovane ste cose per lei erano all'ordine del giorno, che cosa fa? Semmai ha avuto una giovinezza.